Siria Trezzi ha vinto le primarie del centro-sinistra di Cinisello Balsamo con il 51,18% dei voti. La candidata proveniente da Sinistra Ecologia e Libertà, ma sostenuta da un ampio appello civico e numerosi amministratori locali e dirigenti regionali del centro-sinistra, al ballottaggio ha battuto Luca Ghezzi, candidato di Area Cattolica del Partito Democratico, fermatosi al 48,8%. Questo risultato segna certamente l'apertura di una fase politica nuova nel centro-sinistra cinisellese. Siria Trezzi, infatti, per quanto componente della giunta uscente, è stata la candidata che ha marcato maggiore discontinuità con l'amministrazione guidata dalla neodeputata Daniela Gasparini, puntando in maniera decisa, sin dalla campagna per le primarie, su temi come partecipazione, limitazione del consumo di suolo, rilancio del piccolo commercio diffuso e attenzione alle politiche abitative e di sviluppo della città. Temi che saranno sicuramente al centro della campagna elettorale per le elezioni amministrative dei prossimi 26 e 27 maggio. In attesa dell'ufficializzazione degli sfidanti, tra cui ci sarà certamente il Movimento 5 Stelle, esploso anche a Cinisello alle ultime elezioni dove ha raggiunto il 20% circa, i prossimi giorni serviranno al centro-sinistra per ricomporre la sinergia interna, soprattutto al Partito Democratico, uscito con profonde divisioni da queste primarie, che hanno segnato comunque un significativo risultato di partecipazione, con oltre 3.000 votanti al primo turno ed oltre 2.300 al secondo. Martino Iniziato, la città di Cinisello.it, per Popolare Network.